want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Il suono della musica di JJ Telesforo. Buon pomeriggio da Gio Telesforo, appuntamento numero 85 del nostro soundcheck della prova del suono di Radio 24, che oggi dedichiamo alla figura di uno dei più importanti producer discografici di tutti i tempi, il maestro Tommy Lee Puma, che appartiene a una razza ormai in via d'estinzione, ovvero il producer discografico già appassionato di musica, ex musicista, esperto di tecniche di registrazione, che durante la produzione dei suoi album e dei suoi meravigliosi artisti trasferiva negli studi il suo ufficio, addirittura la sua camera da letto, proprio per seguire passo passo tutte le fasi di realizzazione dell'album. Se oggi i direttori artistici delle case discografiche vengono definiti con il titolo e l'appellativo di A&R, che significa artista e repertorio, lo si deve proprio al metodo di lavoro di Tommy Lee Puma, ovvero assegnare all'artista giusto il giusto repertorio, intuendo così l'approccio stilistico adeguato per ogni tipo di progetto. Tommy Lee Puma, dotato di una visione musicale varia, ampia, ha questo talento, il talento del producer, che si basa proprio sulla capacità preziosa e rarissima di riuscire in ogni occasione a sfruttare al meglio il talento e le caratteristiche dei suoi artisti, lasciando però loro la libertà di espressione, di interpretazione, preservando così l'integrità artistica, ottenendo grande qualità in ogni occasione, con successi di critica e di pubblico. Pensate che Tommy Lee Puma ha ottenuto con le sue produzioni 35 dischi d'oro e di platino certificati, 33 nominations ai Grammy Award, ne ha 24, e riuscendo a vendere nell'arco della sua carriera oltre 75 milioni di dischi venduti. Tommy Lee Puma ha prodotto Guantanamera, un grande classico proprio all'inizio della sua carriera, lavorando poi a stretto contatto, cito soltanto alcuni artisti, con Barbara Streisand, Miles Davis, João Gilberto e Antonio Carlos Jobim. Ha prodotto Jazz Crusaders, Joe Sample, Randy Crawford, Dr. John, Al Jarreau, Anita Baker, Natalie Cole, Yellow Jackets, Michael Franks. Ha scoperto Diana Krall, ha lavorato con Paul McCartney e ha lanciato la vocalità di George Benson. Produce infatti per George Benson nella metà degli anni 70 un album importantissimo come Breezin', e poi si riunisce insieme al grande organico orchestrale diretto dal maestro Klaus Ogerman nel 1977 insieme a George Benson per realizzare per lui un album bellissimo intitolato The In Flight. E da questo album, per presentare questa puntata dedicata alla figura del producer Tommy Lee Puma, ascoltiamo un classico intitolato A Nature Boy, George Benson per Tommy Lee Puma al soundcheck di Radio 24. Was a boy, very strange enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A Nature Boy, la versione di George Benson targata 1977 dall'album The In Flight, prodotto dal maestro Tommy Lee Puma, che oggi celebriamo qui al soundcheck di Radio 24. Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto di samba, não vou a Ipanema. Não gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu lhe telefonei, la voce, la passione di Antonio Carlos Jobim nell'interpretazione di una sua composizione intitolata Ligia, tratta da un album del 1977 dal titolo Urubù, prodotto da Tommy Li Puma, che oggi celebriamo qui al soundcheck di Radio 24. Questo eccellente producer, nato nel 1936 a Cleveland, affetto da un'infezione ossea che lo costringeva per lunghi periodi a letto, trovando così conforto solo nell'ascolto della piccola radio che aveva sul comodino. Tommy Li Puma si appassiona alla musica, ascolta il primo rhythm blues, ascolta musica jazz, prende lezioni di musica al sax tenore, partecipando a piccole jam session locali senza perdere neanche un concerto dei musicisti in circuito nella sua città. Ma nonostante la sua passione per la musica e non avendo poi un grande talento come musicista, segue i consigli di suo padre barbiere, che lo convince ad aprire nel 1956 una sua barberia al centro di Cleveland, proprio di fronte alla sede della stazione radio locale. E quindi un certo numero di disc jockey diventano suoi clienti, così come gli artisti e i promoter discografici che quotidianamente erano presenti nella piccola stazione radio di Cleveland. Accetta dunque la proposta di entrare in una piccola etichetta indipendente come magazziniere, dal ruolo di magazziniere diventa promoter e approda alla A&M Records. Fonda nel 1960 la Blue Thumb Records, diventa capo del catalogo jazz e progressive music della Warner Bros., in seguito vicepresidente e direttore artistico della Elektra, presidente della GRP e delle Impulse negli anni 90. Dal 98 al 2005 è stato presidente della Verve Music e oggi per la Verve Music è presidente emerito ad honorem per i grandi album prodotti da uno dei più grandi producer discografici di tutti i tempi. Nel 1986 un giovane bassista chiamato Marcus Miller convince Tommy Li Puma a produrre il nuovo album di Miles Davis e così nasce un album importantissimo per il jazz contemporaneo come Tutu. Miles Davis al soundcheck di Radio 24, prodotto da Tommy Li Puma. Soundcheck, il suono della musica. E con la puntata di oggi del Soundcheck di Radio 24 stiamo celebrando uno dei più grandi producer discografici di tutti i tempi, Tommy Li Puma, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere e di frequentare quando ero negli Stati Uniti insieme a Ben Sidran, e che poi insieme a Ben Sidran alla fine degli anni 90 venne a trovarmi a Roma, e quindi dopo una bellissima giornata in giro per la nostra capitale proprio per far rivivere a Tommy Li Puma l'atmosfera tipica del nostro paese, andammo in studio di registrazione a trovare il mio amico Renzo Arbore, che stava realizzando uno dei suoi dischi con l'orchestra italiana. Fatto sta che entrammo in studio, Renzo era proprio nella sala da ripresa alle prese con un piccolo cagnolino e stava lì proprio con un bastoncino, lo aizzava per far abbaiare il cane proprio nel momento giusto all'interno delle tracce del brano che stava producendo. Fatto sta che quando Renzo uscì dalla sala da ripresa, quindi dopo gli abbracci e i saluti con Tommy Li Puma e Ben Sidran, si sente fare da Tommy Li Puma, il grande producer, questa domanda: Renzo, ma perché non lo campioni il cane, così posizioni la sua performance lì dove ti serve? E Renzo, naturalmente con lo humor che lo contraddistingue, fu prontissimo e rispose a Tommy Li Puma: no Tommy, perché la performance deve essere live. Pensate, Tommy Li Puma che vede Renzo Arbore in studio con un cane, lui che ha prodotto uno dei più grandi vocalist di tutti i tempi come Al Jarreau, che infatti qui ascoltiamo al soundcheck di Radio 24 con un brano intitolato Scusa Booty, scritto da Russell Ferrante e tratto dall'album Accentuate the Positive, prodotto da Tommy Lee Puma. Running, darling, drummer's drumming. The pulse is pumping, darling, summer's gone it. The distance running, darling, scoochie boo doo ba doo moo. Termina qui il soundcheck di Radio 24, puntata dedicata al producer Tommy Lee Puma, che ha avuto nella sua carriera anche l'intuizione di produrre Diana Krall, mettendo a sua disposizione il sound tipico delle big band. E quindi chiudiamo con la pianista, cantante, bravissima, ormai star del jazz internazionale, che interpreta un classico come Come Dance With Me, tratto da un album dal titolo From This Moment On, prodotto da Tommy Lee Puma. A tutti voi buon weekend, buona giornata e naturalmente buona musica da Gio Telesforo. Hey there kids, put on your dancing boots. Come dance with me. Come dance with me, what an evening for some terpsichore. Handsome face, I know a swinging place. Come and dance with me, romance with me, cross a crowded floor. Soundcheck. Il suono della musica.